arrivano dalla Francia, sono Year, questa è Radio Number One, invece lui arriva dall'Inghilterra, anzi dall'Irlanda, perdonami. Mi offendo, Elisa. Oh mio Dio, scusate, dall'Irlanda e per essere precisi da? The Cork. The real capital. E il tuo cognome è? Kavanagh, una cosa semplice. Non lo ripeto, sembra una parolaccia, vi lascio con Fergal e Love America. Bye bye, sono le 21. Sound americano su Radio Kiss Kiss Network è I Love America. I Love America. I Love America. Eccoci qua, all the way from Cork City in Ireland. My name is Fergal Kavanagh e c'è Michele Tuzzo on controls. E grazie ad Elisa, per carità, non è che stasera sono venuto da Cork City. Comunque, le mie origini sono lì. Allora, ragazzi, lunedì sera, 2 ore della più bella musica americana fino alle ore 23. E iniziamo con un gruppo storico, molto storico, che sono tornati con un nuovo album. In recensione le parlano molto bene, e adesso siete voi a decidere. This is the Bee Gees and this is where I came in. I've seen this story, I read it over once or twice. I said that you say a little bit of bad advice. I've been in trouble, it happened to me all my life. I like and you like, and who will get the sharpest knife? You know, shouldn't be somebody like that, but the kind of man to throw his hand into the ring and down without following through. The day turns into night. Go down, following through. The day turns into night. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. This is just where I came in. I'm fine, down, but I'll go anywhere. Yes, I'll go anywhere. Color into black and white. Under the bedclothes, everything will be alright. I know that you know, nothing ever stays the same. Said so, I said so, love will never speak its name. Never gonna find somebody like you, maybe with a brain and a body too. I could never make a move on a woman that leaves me on. You got a little bit of something for everyone. It's a little too late, and the wolf is on the run. Il nuovo album si intitola This Is Where I Came In, è di qua che sono entrato, quindi magari le dedicano ad una porta, chissà. Sono i Bee Gees on I Love America e ragazzi, ci avete ragione, non sono americani, ok, però il fatto è che anche se sono formati in Inghilterra, poi trasferiti in Australia, loro hanno avuto il più grande successo delle loro carriere in America e quindi noi lo associamo con la musica e il successo America, The American Dream proprio. E stranamente, finora non sono riusciti ad avere molto successo dopo il successo iniziale degli anni 70, cioè il loro comeback non è successo loro lì, ancora lì, ecco Lionel Richie. And every day my heart feels the pain. I wake up to the thought of you and I call your name. No one ever made me feel the way you Sensation of life is on Kiss Kiss Network. Perhaps I was addicted to the dark side, somewhere inside my childhood when it's my heart died. And even though we both came from the same places, the money and the fame made us all change places. How could it be through the misery that came to pass? The hard times make a true friend afraid to ask for currency, but you can run to me when you need. And I never leave, honestly, someone to believe in. As you can see, this small thing to a truth. What could I do? Real homies help you get through. And coming new, he'd do the same thing if he could. Cause in the hood, true homies make you feel good. And half the times we be acting up, call the cops, bringing a cease to the peace that was on my block. And never stopped when my mama asked me, well, I change. I tell her, yeah, but it's clear I'll always be the same until the end of time. Until the end of time. Please Lord, forgive me for my life. sent. My heart stares seem to scare all my sister's kids. So you know, I don't hang around the house much. This all night, money making got me out of touch. Shit, ain't flashed a smile in a long while. An unexpected birth, worse of the ghetto child. My attitude got me walking solo. Ride all alone in my Lolo. Watching the whole world moving slow-mo. Before time disappear, listen to the ocean. Smoking port, stick my thoughts, then it's back to coasting. Who can I trust in this cold world? My phony homie had a baby by my old girl. But I ain't tripping, I'm a player, I ain't sweating him. I sexy sister had a mumble like a Mexican. His Mexican, no remorse, it was meant to happen. Besides rapping, only thing I did good was rapping. Until the end is out. My life as an outlaw all along. Remain strong in this planet full of player haters. They conversate with death row full of demonstrators. And in the end, drinking Hennessy made all my enemies envy me. So cold when I flow, eliminating easily. Fall to their knees, they plead for their right to bleed. While begging me to keep the peace. What I can see, closer to achieve. In times of danger, don't freeze. Time to be a G. Follow my lead, I supply everything you need. And out to game and the training to make a G. Remember me as an outcast outlaw. Another album out, that's what I'm about. More, getting raw till the day I see my casket. Buried as a G while the whole world remembers me. Until the end of time. Lord, take these broken wings. Put your hands to come and heal me once again. Tupac and Until the End of Time, un brano che abbiamo proposto su Remake per il fatto che c'è Broken Wings. Spot Time. Giuliani, salute, benessere e bellezza. In questo comunicato parliamo di bellezza. Cellulite, cosa dicono le donne? Con l'arrivo dell'estate, tra di noi non si parla d'altro. La cellulite. Io mi sono affidata a Dimagrasi Cell Giuliani. Di Giuliani, mi fido. Dalla ricerca Giuliani, Dimagrasi Cell, una formula innovativa a base di estratti vegetali. Dimagrasi Cell Giuliani, le perle che aiutano a contrastare la cellulite. Funziona? Chiedetelo in farmacia e poi chiedetelo al vostro specchio. Giuliani, siamo quelli dell'amaro. Kiss, kiss. Tesoro? Sì? La pasta è pronta. Ma che pasta è? Agnesi, naturalmente. Ma l'hai vista in televisione la pubblicità di pasta Agnesi? Sì, certo. Ma non vorrai mica. Dal 1824, il gusto di Agnesi ha un successo in più di 100 formati di pasta. E per molti italiani, un piacere irrinunciabile. Il segreto? I migliori grani, un sapore unico, il colore giallo del sole e un processo di essiccazione lenta che mantiene intatta la qualità del grano. Dove c'è Agnesi, c'è Agnesi. Tia, tia. Siamo in un punto vendita Peugeot e queste sono porte blindate da rifugio antiatomico. Resistono a una bomba di 4 megatoni. Terranno chiusa qui la nuova Peugeot 307. Un'auto che con 6 airbag ABS non sopporta restrizioni nemmeno sulla sicurezza. Ecco, vengono chiuse. Così non vi potrà scappare. Peugeot 307. Esprit libre. Scopritela il 25, 26 e 27 maggio. Venerdì e sabato fino alle 22. Domenica tutto il giorno. Yes, yes. Everybody and how do you do? Gonna rock, shock your body with the Cryptic Souls crew. Rock, rock to the beat, yo. Rock, rock to the beat, yo. Hello, everybody and how do you do? Gonna rock, shock your body with the Cryptic Souls crew. Rock, rock to the beat, yo. Rock, rock to the beat, yo. It's the OBE, the O, the NE. Yes, the man that you think of. And when I step inside the place to be, all them ladies fall in love. And I'm the B-A-N-D-A, the L. And I would like to mention that T-Dot City is is a place we dwell. We came to party with no tension. Well, it's the ABDOMIN. A-A-A-A-A-A-A-L-L-L-L-L-L-L. That's abdominal, quite obvious, cause I trust you know how to spell. Who's that cryptic soul cat that's known to get live? You transform my name and numbers, it'd be 135, 9-11, 19, stepping on your scene. Basics knows the basics, shine like Afro Sheen. Clean out your ears and you open your eyes to see K-N-G-C-F-C coming alive in 3D. I'm the man who you wanna be, but defeating me is impossibility. Hello everybody. City got scared because I came with clenched fists and my nostrils fled. But when I dropped my first rhyme, I automatically declared that I could take the city out without the hardcore stare. S-Y-M-B-O-L-I-K. And if you didn't come to party, then holla mayday. K, paint a picture stroke by stroke in your brain. CK Flow, yeah, that is my name. Well, I go by the title of the 1D rockin'. This here recital's guaranteed not stop. I got a whole bunch of brothers from around my block, and it's a sure shot that we stay on top. It's the planet B, here to keep it live. So known as Kudu 5. When my crew is in the place, we take control. Now you're being captivated by the cryptic souls. Che stanno facendo? Ma Michele, sei tu Michele Tuzzolo a fare questo scratching in diretto? E io sul disco? Sul disco? Ho capito, comunque è bello, proprio bravo. Allora, that's Len, magari le ricordate con il loro grande hit Steal My Sunshine. Questo è abbastanza diverso, è il loro nuovo singolo Cryptic Souls Crew. Ah, un piacere presentare questo brano qua. It's Marvin Gaye and I Heard It Through the Grapevine. E quando è stato sparato del suo padre il primo aprile 84, abbiamo perso un megastar. classica canzone proprio, che parla della tortura in un problema emozionale, cioè le donne le sta per lasciare e lei non le ha ancora detto e lui l'ha sentito attraverso qualche voce, cioè through the grapevine. Bello proprio. Here's Spooks and the Things I've Seen. Nation. I've heard the mindless repetition of empty words without tradition. Turn original verbs into submission. I smell blissful ignorance addiction, but I guess I wouldn't be right if I said the blunt was like a baby pipe. There ain't gonna be no revolution tonight. Half my warriors as high as a kite, lost and they lost all they pipe. You won't believe the things I've seen. Swan dive to death. I'm two guys, multiplied by 93 guys. Evenly balancing evil equally in each eye now. Maybe I'm the most thorough worker on the job to you, or maybe I'm the one who was plotting to rob you. The fear to speak down, the women on no cash to floss, makes most of y'all hustle your ass off. His name is William. I'm sure he's Bill. Do on I Love America. Allora mi sembra che siamo arrivati al momento in cui vi devo dare il numero di cellulare per raccontare what you wanna do, all you wanna do. 348-661-9461. That's how you can get in contact with us. Allora, sono arrivati delle email sul mio indirizzo fergal@kisskissnetwork.it. Voglio salutare a Saverio. Allora Saverio, mi dispiace che non ti rispondo stasera, però in questi giorni ti rispondo. E poi do Deirdre a Galway and Emma Roscommon. It's your birthday tomorrow, Emma. Happy birthday. And you've got an exam as well. Well, I hope it goes well. Non ti posso accontentare con Jennifer Lopez, but I hope you like Michael Jackson. This is Don't Stop Till You Get Enough. America. This wine and drink with me. lay our misery. Say tonight, by the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight, by the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. Girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Say tonight, and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight, and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow comes to take me away. I wish that I could stay. Girl, you know I've got to go. Oh, Lord, I wish it wasn't so. Say tonight, by the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight, by the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight, by the break of dawn, come. Gran bel pezzo per Eagle Eye Cherry, That's Safe Tonight, and I Love America on Radio Kiss Kiss Network questa sera. E dietro del vetro c'è sia Lisa con Michele Tuzzle che mi stanno guardando e stanno aspettando che nomini suo padre, il padre di Eagle Eye Cherry, e dire qual era il suo professione. Allora, lui suonava la tromba e si chiama Don Cherry, siete contenti? Here's the Pretenders, proprio un bel pezzo pure questo, torniamo dietro gli anni 80, and don't get me wrong. Upon the sea where the mist. Kiss Network. Qua in Italia ultimamente, no? E voglio fare un piccolo sondaggio con i miei colleghi qua. Michele, qual è il tuo pezzo più preferito di Madonna? Cioè, da tutto il tempo. Cos'è? Cosa dice? Who's that girl? Ok, bello, bravo. Elisa, ti piace Elisa, perché hai scelto questo pezzo? Io devo dire sinceramente che il mio preferito era sempre Vogue, Strike a Pose, Vogue, però poi lei è uscito con questo grande pezzo, Music, e poi inizi con Hey Mr. DJ, Put a Record On, quindi dico, ma Madonna sta parlando proprio con me. That's Music on I Love America, and here comes a number one from the 80s in America, yeah, it's I Love America, it's Blondie and Heart of Glass. Oh, about time. Bevi la vita tutta ad un fiato, in ogni sorso di viso trae una vita da non in moto. Pagatela da solo. Costa troppo. Metti in moto. È la tua risposta definitiva? Certo. L'accendiamo? Metti in moto. Un milione di motivi per acquistare uno scooter Peugeot e farti pagare l'assicurazione. Per informazioni chiama 800 90 90 88 oppure chiedi al tuo concessionario Peugeot Motocicli. Peugeot. Libertà totale. La parola alla psicologa. La sindrome onda CRV e HRV colpisce chi ha una fobia di insufficienza economica superabile con un anticipo e 36 mini rate a partire da 299.000 lire. TAEG 62 TAN 59 e una liberatoria rata finale fino al 30 giugno. With Satisfied. Ok, ho dato il numero del SMS box 348-661-9461 e sono arrivate delle messaggi bellissimo. Infatti mi imbarazzo un po' a leggerlo, forse non è che mia madre non è andato per caso. C'è una che dice: la tua voce dai mille colori riscalda d'inverno e rinfresca d'estate. Grazie per averci parlato quando un lungo silenzio aspettavo la tua voce. Sei the best. Bellissimo questo. E poi Marika mi ha scritto in napoletano. Allora, siamo pronti a ridere. Vedo che posso fare. La tua voce è arripante. Ti ci passe pilla pietto luz. Come è andata? Avete capito? Se state ascoltando a Milano. Did you understand that? E io no, non so che hai detto. Comunque grazie Marika. Well, I hear you whispering the words. forget about it. America. The other day, staring out of my window, thinking about tomorrow, wishing things were clear. No need to rush, I ain't gonna worry. My sorrow is bound to disappear. Sometimes I tell myself I'm better off without you, and then I have to face the emptiness I feel inside without you. Find a way to make it through another day. I need a way to find the truth within me. Accept the fact that I love you. They say it doesn't kill you, makes you stronger. I must have the heart of a lion, sifting through love's remains. Sometimes I tell myself I'm better off without you, and then I have to face the emptiness I feel inside without you. Find a way to make it through another day. Jazz e i ritmi di hip hop, almeno così dice sul sito internet. Comunque è bellissimo questo pezzo, una canzone dell'amore perso. It's Buckshot Le Funk and Another Day on I Love America questo lunedì sera. Ragazzi, io sarò l'unico in tutto il mondo, tutta Italia almeno, che non ha visto il video di Teenage Dirtbag di Wheatus. Mi parlano molto bello, quindi mi sa che stasera rimango un po' davanti al televisore a fare il zapping finché finalmente la beccherò. Here it is, bellissimo, Wheatus and Teenage Dirt Bike. Her name is Noel. I have a dream about her. She rings my bell. I got gym class in half an hour. Oh, how she rocks in kids and tube socks. But she doesn't know who I am, and she doesn't give a damn about me. 'Cause I'm just a teenage dirtbag, baby. sidewalk and he drives an IROC. But he doesn't know who I am and he doesn't give a damn about prom night and I am lonely, lo and behold, she's walking over to me, this must be fake, my lip starts to shake, how does she know who I am, and why does she give a damn about? Sentito la voce lì di Mena Sovari, che è proprio giusto per questa trasmissione I Love America You're Listening To, perché lei è stato protagonista del film American Pie e anche American Beauty, e poi se fanno un American Pie numero 2 ci sarà pure lei, so she loves America as well. Comunque pure questo film Loser avrà lei nei, come protagonista pure, e sicuramente ci sarò al cinema per vederlo. You're listening to Kiss Kiss Network e adesso sono le 22. Bring Bello, questo è un grande successo per Billy Idol dal suo album Rebel Yell, che ha venduto fino a 2 milioni copie. Per lui è un grande successo, però adesso non so che fine ha fatto il suo Greatest Hits un mese o due fa, però non so se sta avendo molto successo o meno, boh. Allora you listen to I Love America fino alle 23, Michele Tuzzolo on controls, Fergal Kavanagh speaking to you, and here's TQ. Depending on how the wind blows, I might even paint my toes. whatever feels good in my soul. Dice: non sono la ragazza, la media ragazza di un video. Io mi chiamo India Ari e mi devi rispettare per quello che sono, non quello che vedete sul vostro televisore. È una bella voce che c'ha questo India Ari, che adesso sta rivelando come un grande successo. Allora voglio salutare a Claire. Ciao Claire, ha detto che volevo dedicare le canzoni di Eagle Eye Cherry a qualcuno, però purtroppo l'abbiamo già passato e quindi dedico il prossimo a Stefano, ad essere preciso, perché lui è una persona speciale. Vuole anche che le dico che lo penso sempre e che good, cioè li voglio un mondo di bene. Grazie, grazie a te Claire. I hope you like this song that I'm going to dedicate to Stefano. It's the Mamas and Papas, un pezzo storico, and Dream a Little Dream of Me. Stars shining bright above you, night breezes seem to whisper I love you, birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me, just hold me tight and tell me you'll miss me, while I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Leave all worries behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. What time? Oh, ma te rendi conto? Ma ha piato pei fondelli, tu figlio. Che ha fatto il cocco di mamma sua? Ma fregata macchina nova, col volante tutto impellicciato. Per far gallo, cara ragazza. Ma che, pariva prima al concessionario Aprilia. Si è messo lì in prima fila. Gagliardo! Quando torna i vedi, sganassoni. Con l'offerta Aprilia scooter su misura, puoi avere lo scooter che vuoi tu, alle condizioni che scegli tu. E in più, è Aprilia. Ernesti, torna presto, sacco, scooter Aprilia, se no vedi! Yes, yes. È nata Blue Community, la nuova Virtual Square di Blue. E presenta Pino Daniele Live on Chat. In esclusiva per tutto il periodo del tour, Pino Daniele in diretta nella chat line di Blue Community. Collegati subito dal tuo telefonino o app, ovunque ti trovi, e puoi vincere biglietti omaggio per il Medina Tour 2001. Blue Community, la nuova Virtual Square di Blue, la trovi su blue.it. Outmin Rick. Yes, yes. Okay, take it to the bridge. Take it to the bridge. Oh, yeah. Sto facendo mia impressione di James Brown here. E io sto dentro il ring di boxing durante il film Rocky. Sicuramente lo ricordate se avete visto quel grande, grande film. E non ci poteva mancare il suo I Feel Good, grande James Brown. È un pezzo proprio adatto per il nostro programma Living in America. Ricordate pure come era vestito in quel video con i boxer americani, anzi la camicia americana e il grande cloak pure. Bello, bello. Allora, musica americana, you're listening to it. Poi ci sono questo gruppo qua che sono proprio il mastermind di Chic, Nile Rodgers. E sono i Sister Sledge, quattro ragazze tutte insieme. E sono sorelle, perciò hanno deciso, facciamo la famiglia. We are family, it's Sister Sledge. America. Keys, I've got to go. Treat me right. Give me all the things I need. Troppo bello questo pezzo. It's love don't cost a thing, even if you are broke. Anche se tu non avessi una spicciola, il mio amore non ti costerebbe niente. Brava, brava Jennifer Lopez. Allora, here's James Taylor and Mexico. Way down here. Radio Kiss Kiss Network. Even Lana Turner's smile.